24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati e buona settimana. Eccoci, siamo pronti, un po' in ritardo oggi, ma il nostro bar aprirà anche oggi. Eccolo qua, subito. Sulla Saracinesca, bar aperto e tutti dentro, ovviamente, chi vuole entrare, Tanto, come sapete, chi paga lo sapete. Ma perché non rispondi? Il caffè volentieri a tutti quanti. Ovviamente paga sempre Nicole Minetti, la nostra moca. È già in azione, azionata dal nostro alpino, Peter Bescapè. Il nostro Alessandro Longoni in redazione. Siamo pronti per i vostri messaggi, il 349-238-6666. Già si affollano i primi clienti, proprio a cacciarli fuori a calci. Mario Sechi, direttore del Tempo, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, va bene un caffè con la moca? Già preso. No, vabbè, qua te ne andiamo un altro, paga Nicole Minetti, sennò che viene a fare al bar, no, capito? Va bene, doppio stavolta. Ritrovo anche Bimbo Alieno, eccoci qua il lunedì, il nostro Bimbo Alieno. Ma Bimbo Alieno da dove viene questo nome? Ce lo vuoi dire dopo un po' di tempo? Ma certo. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti per essere all'ascolto, tanto per cominciare. E da dove viene? Ce lo dici? Da dove viene? Viene dall'idea di voler dare un taglio divulgativo a quello che dico, quindi l'idea di base è quella di offrire una visione distaccata, senza condizionamenti, quindi come se fossi un bambino, senza sovrastrutture. Capito che concetti, questi concetti alle 6:30, no? Già stiamo, altro caffè subito anche per me, grazie. No, vabbè, comunque Bimbo Alieno, il nostro sguardo anche un po' irriverente, attento su quello che succede nella finanza, nell'economia. Mario Sechi, però cosa succede invece a livello politico? Il Monti bis, guarda, ti leggo i titoli, poi adesso tu ci dici l'apertura del Tempo, io devo fare una protesta formale, non mi arriva il tempo, come faccio? iPad, vabbè, iPad. Tanto, dici il titolo d'apertura del Tempo di oggi. È in lista il Monti Zemolo. Ecco, il Monti Zemolo, ma straordinario, perché non so, io per esempio Messaggero, Monti bis, si allarga il fronte, il Corriere, Casini e Fini lanciano il Monti bis, Repubblica. Rimborsi lo scandalo delle province, vabbè, su questa è bella comunque, poi ne sentiremo. La Stampa, il Monti bis scuote la politica, e il Giornale, i furbetti del Monti bis. Vediamo se l'ho capita bene, Mario, funziona così: c'è qualcuno che ha capito che è comodo che qualcun altro vada avanti alle elezioni, magari si pareggia, perché è un po' faticoso magari prendere i voti. Poi, quando servirà richiamare Monti, se c'è magari anche un posto al ministero, un qualche ministero dice eccomi qua. Sì, funziona più o meno così. Ma ci sono tre categorie, posso essere non più preciso, ma come la vedo io, diciamo. Ci sono tre categorie. La prima sono i partiti della Seconda Repubblica che cercano di sopravvivere allo tsunami che hanno innescato loro, tra l'altro. La seconda categoria è l'antipolitica, vari movimenti che cercano di sfruttare la crisi economica e istituzionale a loro favore. E la terza categoria è il nascente partito dei montiani, che vede in Monti la prosecuzione ideale, eccetera. All'interno di questa categoria c'è una sottocategoria, o ce ne sono altre due. Cioè, ci sono i montiani che dicono Monti va bene, noi lo sosteniamo, ma non mi candido, ed è Montezemolo, e dice però metto a disposizione tutto, farò campagna elettorale per lui, eccetera. E poi ci sono i montiani che vedono Monti come una zattera per salvare se stessi. Sì, cioè, Fini e Casini. Chiaro, Fini e Casini. Voglio dire, Fini in particolare è da 30 anni in Parlamento. Ora, se proprio ci tieni al paese, facci la cortesia di non tornare in Parlamento. Ma magari punta, che ne so, un ministero, qualcosa. Perché è obbligatorio darglielo? No, per carità, non è che è obbligatorio darglielo, però è doveroso da parte sua provarci questo. Doveroso no, provarci sì. Provarci sì. Doveroso da parte sua sarebbe, dopo 30 anni, liberare il posto. La questione è, ma perché andiamo a votare a questo punto? Anzi, voglio provocare così Bimbo Alieno, ma diamo tutto in mano a Moody's, diamo tutto in mano a Fitch, andiamo, ma chi se ne frega di votare? Sospendiamo tutto in tempi anche di stare attenti ai cordoni della borsa, no? Stringiamo e risparmiamo e basta, diamo tutto in mano a Mario Draghi della BCE, o no, Bimbo Alieno, va bene così? Beh, speriamo di no, perché comunque la prospettiva di dover dare tutto in mano alla BCE esiste, no? Cioè, nel momento in cui si dovessero chiedere gli aiuti, sostanzialmente si firma il famoso memorandum, ovvero si deve sottostare alle indicazioni delle istituzioni che poi ti aiutano, quindi, speriamo di non arrivarci, ma noi andiamo a votare perché così diamo retta al nostro primo ministro, che è il primo sostenitore. Io sono andato a vedermi la dichiarazione, quella originale che ha lasciato a New York, poi in Italia lui l'ha ribadita, no? Quella della sua disponibilità, diciamo così. E io ci ho letto un'altra cosa, io ho letto, così, nella mia testa è nato un parallelismo con quella che sui mercati viene chiamata la Greenspan put, che adesso viene chiamata Bernanke put, cioè i mercati sanno di non dover speculare eccessivamente a ribasso sui mercati americani, perché se si esagera la banca centrale, quindi prima Greenspan, adesso Bernanke, interviene facendo lasciare allo speculatore a ribasso col cerino in mano. Secondo me la dichiarazione di Monti la potremmo definire una Monti put, perché lui ha fatto uno specifico riferimento al fatto che il messaggio era indirizzato prima di tutto ai mercati, e alla comunità internazionale. Sì, sì, non faccio un Monti put, non sbandate, tenete il volante le mani ben attaccate al volante, cari ascoltatori, alle 6:41. State attenti a non speculare sull'Italia, perché io sono sempre lì, sono senatore a vita, e se ci fosse bisogno torno. Sì. Ma questa non voleva essere l'espressione di una sua ambizione personale. No, vabbè, questo non si sa, però diciamo, intanto l'ha detto, da lì si è innescato tutto il dibattito. Una ambiziosa e un accentratore di potere non avrebbe Ma no, non è questione di ambizione, però è come dici tu, cioè lui si è rivolta ai mercati, capite? Non neanche, no, Mario Sechi, non ci si rivolge più al popolo italiano, perché il messaggio principale va dato ai mercati. Vabbè, no? Ma se uno va a New York a parlare, parla al popolo italiano. Sì, vabbè. Sai che io non amo la tecnocrazia, no? Però, insomma, adesso con un po' di oggettività, guardiamoci a destra e a sinistra. Ma chi sono i candidati? No, ma per carità, ma io dico, ma... se i candidati sono quelli che si profilano e se il dibattito politico è questo, allora... Monti a vita, dici? Monti a vita. Il problema è che un anno di governo tecnico, che io pensavo i partiti sfruttassero per riformarsi, vista la gravità della situazione, non dico per presentarsi in maniera eccellente, ma in maniera un minimo dignitosa di fronte all'elettorato, non hanno fatto niente. Cioè, noi stiamo parlando di un sistema che non è capace di farsi una legge elettorale, cioè sulla legge fantastica, elettorale, sono ai materassi. Oggi inizia ufficialmente la 31ª settimana decisiva, questo si legge sempre il sabato e la domenica, per la legge elettorale, la barzelletta degli ultimi 6 mesi. La barzelletta degli ultimi anni, dell'ultimo anno. No, ma sì, ma... Allora, tu capisci che in una situazione del genere una persona che ha un minimo di pragmatismo, e io mi annovero tra quelli, scusate, cosa c'è a destra questo, a sinistra cosa c'è questo? Teniamoci Monti. No, ma questa della legge elettorale, tra l'altro, è veramente una pagliacciata, nel senso che come siamo arrivati a questa legge elettorale, che tutti dicono è una porcata, il porcellum, è stata fatta all'ultimo momento. Succederà uguale, si farà all'ultimo momento, e all'ultimo momento cosa si fanno? Le porcate, per l'appunto. Ieri il TG5... non potevamo non mandarla in onda, perché ha sentito una persona, ha intervistato una persona che ha fatto un'analisi proiettata sul futuro, sul nuovo che avanza, sull'Italia che deve cambiare, Ciriaco De Mita. Perché da 3 giorni non va in onda il Rai? Perché non ne ho voglia. Mettiamola così, non erano comunque le domande alle quali intendevo rispondere, sono cazzi miei, diciamo. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Ho capito, però Ferrari. Andiamo avanti, non si può sapere perché da 3 giorni vai. Andiamo avanti. Oggi almeno andrà in onda, questo lo possiamo sapere. Andiamo avanti. Cazzi di Giuliano Ferrari. Bravo, bel titolo. Allora, Mario Secchi, così rispose Giuliano Ferrara 2 giorni fa, si è perso, non va più in Rai, era il nostro ospite, cazzi miei, detto non vado più in onda. Però siamo con Mario Secchi, direttore del Tempo, e con il nostro bimbo alieno vorrei farvi sentire al TG5, ieri inizia un servizio così, c'è un libro da lanciare, e ecco qua il servizio. La storia d'Italia non è finita. Ci dice Ciriaco De Mita in questo suo libro, in cui va indietro nella storia d'Italia per parlarci del presente. Ho riflettuto sul modo di affrontare la politica in quest'ultimo periodo, e allora ho ritenuto utile, credo, per chi legge, ricostruire la storia dal dopoguerra in poi. Riflettuto sulla politica. E poi, però, Mario Secchi, mi aiuti a tradurre quello che dice De Mita in questa frase? Ascoltala bene, perché dopo aver riflettuto dice questo sull'attuale situazione italiana. E poi tu, che sei un lettore della politica, ci aiuti. La storia della democrazia rappresentativa probabilmente è in difficoltà, e io mi auguro che la storia continui più preoccupandosi di recuperare questa condizione della politica anziché puntando sul valore delle istituzioni come condizione di comando. Mario Secchi, mi aiuti? Io sono bravissimo col sardo, me la cavo con l'inglese, con l'italiano, ma col demitese non ce la faccio. No. Cosa vuol dire? Cioè, la democrazia rappresentativa so anch'io che cos'è. Vabbè, bimbo alieno, anche tu, se ci aiuti, se hai capito qualcosa magari. La traduzione dal demitese sarebbe in realtà che la democrazia è in crisi. Punto. Ha riflettuto e ha scritto un libro su questo. Lo sapevamo. La democrazia in crisi, forse veniamo anche da 20 anni di chi ha fatto il debito pubblico. C'era anche lui, non so, Bimbo Alieno, c'era anche lui, c'era anche De Mita. Mi pare di sì. Però volevo chiederti, Alessandro, ma com'è che ogni volta che ci siamo io e sei che tiri fuori De Mita o suo figlio? No, l'hanno intervistato ieri al TG5. Tra l'altro, ecco, visto che me lo dici, ovviamente non chiedete mai a De Mita, come ha fatto la nostra Elisabetta Fusconi, perché ha la scorta, perché sennò lì si arrabbia tantissimo. Parla come se fosse il pubblico ministero. Questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. Eccolo qua, così si concluse la famosa telefonata. Comunque no, Mario Secchi, la democrazia è in difficoltà, ma che dobbiamo fare a questo punto? Adesso io, quando dico sospendiamo le elezioni, ovviamente è una provocazione. Però guarda, adesso quella ovviamente non è proponibile dalla democrazia, non si torna indietro. Però in tutto l'Occidente è in corso, non solo a livello accademico ma nel dibattito alto, diciamo, una profonda riflessione sui meccanismi della democrazia e la loro adeguatezza rispetto alla sfida della contemporaneità. Oggi, in un mondo iperveloce, Bimbo Alieno magari ti può raccontare di in quanto tempo reagiscono i mercati, i meccanismi democratici rischiano di diventare il problema. Abbiamo visto, per esempio, che cosa è successo in sede di Unione Europea prima di arrivare a una decisione della Banca Centrale, che è frutto anche di un'azione politica che ha un po' mitigato la questione. Cioè, addirittura il problema rischiano di diventare le democrazie con le loro procedure lente, con i loro meccanismi. Il primo ministro cinese, quando è arrivato, ha detto: ma voi avete un problema con questa vostra democrazia. Sì, lui ne sa qualcosa di forse di non democrazia. Bimbo Alieno, dobbiamo rire. Quanto una volta me lo spiegasti in un pranzo, era molto affascinante parlare con Bimbo Alieno di come funzionano anche i meccanismi di borsa della finanza. Davvero si decide in un batter di ciglia lì, no? Destini di spostamenti di milioni e milioni di euro. Ah, certo, lì c'è un'isteria estrema, perché hai la necessità di cercare di capire prima degli altri, quindi devi iperdecidere, nel senso che una volta che decidi che fare, lo fai in modo molto determinato, perché cioè, non le puoi fare lentamente le cose o progressivamente. Per cui per certi versi in microsecondi, per altri versi invece paradossalmente si decide di più a mercati chiusi che non a mercati aperti, perché finita la giornata ci sono degli incontri tipici nei bar londinesi dei broker che si vedono per una birra e chiacchierando, gossipando uno con l'altro, si fanno delle deduzioni che poi si riflettono il giorno dopo. Un po' come qui nel nostro bar davanti alla nostra moca lenta. Ho un minuto per chiudere, Mario Secchi, ti volevo sottoporre questo: ormai è un profluvio di rimborsi spese, chilometri, le regioni, le province, si fanno rimborsare di tutto. Addirittura c'è un consigliere del Piemonte che ha detto l'altro giorno: sai che mi è successo? Passeggiavo con la mia famiglia per il corso a Torino e la gente: guardalo là, quello è un consigliere regionale, con tutti col dito puntato. Siamo a questo, le monetine vi sa che arrivano tra poco, o i forconi. È il rovescio della medaglia, ma d'altronde la politica un po' se l'è cercata, no? Un po' sì. Ma che arriveranno? Sono arrivate le monetine, adesso che ci sarà? Niente magari, ma speriamo, no, speriamo niente. Sicuramente la rabbia, ci sarà alle elezioni del 2013 lo shock, cioè un voto di protesta molto forte, per cui è quello che io non temo. A questo punto io ti dico la verità, auspico un grande shock, perché è solo dai grandi shock che l'Italia poi riparte. Auspichi questo, come ha detto Vittorio Feltri, mi auspico la bomba atomica, altro che un cambiamento. A livello politico, il paradosso, ma dice una cosa vera, cioè l'Italia, se noi guardiamo la sua storia, ogni volta che è caduta in ginocchio ha saputo rialzarsi, perché ha preso consapevolezza della situazione, eccetera. Probabilmente noi abbiamo bisogno di questo, e se tu pensi alla crisi economica e alla crisi istituzionale che, ripeto, culminerà con il voto elettorale, sì, allora siamo vicini a un grande vicini a quello. Allora saluto il nostro Peter Vescapè, sempre in regia. Siamo pronti alla lettura dei giornali. Abbiamo ospite alle 8:15, tra meno di un'ora, dunque, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. E poi parleremo di scuola. Questa vicenda abbiamo voluto dedicarci una puntata, un approfondimento alle 8:30. La ragazza che alla maturità ha copiato, ma siccome era in uno stato d'ansia e siccome aveva un curriculum scolastico brillante, questo alla maturità, il Consiglio di Stato, perché i genitori hanno fatto causa, gli ha dato ragione. Non si può bocciare una ragazza che copia perché era in stato d'ansia. E dunque è tra i maturati, avete sentito le statistiche, solo il 2% di bocciati in Italia. Bene o scuola buonista? Ne parleremo alle 8:30, ora andiamo a leggere i giornali in edicola. In questo lunedì 1 ottobre, intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre con: fisco, record di denunce penali e boom di ipotesi di reato, più 80%. Le segnalazioni alle procure sono aumentate del 50%, dunque il boom di denunce penali per quel che riguarda il fisco. Corriere della Sera invece, il titolo d'apertura è: la mina statali sui conti dell'INPS, gli effetti della fusione con l'INPDAP, le amministrazioni non versavano i contributi e ora la cassa dei dipendenti pubblici porta il deficit dell'INPS a 9 miliardi. Repubblica, rimborsi, lo scandalo delle province. Ma come, eravamo rimasti alle regioni? Ebbene sì, ora anche le province. E poi il tema è il Monti bis. Per molti quotidiani si apre su questo. La Stampa: il Monti bis scuote la politica. Il Giornale: i furbetti del Monti bis. Il Messaggero: Monti bis si allarga al fronte. Il Secolo XIX avanza il partito di Monti. Pubblico: il sonno di Bersani genera Monti. Mentre l'Unità: Tobin Tax, il governo dica sì, la campagna dell'Unità per la tassa sulle transazioni finanziarie. Però sapete che dopo la diga aperta da Batman Fiorito, la questione dei rimborsi delle regioni davvero è una diga che sta esondando. E allora vi voglio raccontare due vicende, poi ci concentreremo più avanti la questione delle regioni in maniera un po' più istituzionale, ma due vicende legate ai rimborsi. Ora tutti vanno a fare le pulci sui rimborsi chilometrici dei politici, vanno a vedere perché si spostano, come si spostano.

più trasparenti, più impegnate, più eticamente responsabili, che si assumano finalmente delle responsabilità, il paese non lo cambia. Oggi secondo me è il momento che tante persone la smettano di stare alla finestra, perché pure questo è il tema. Noi abbiamo molte persone che, per come è stata ridotta la politica, non vogliono più impegnarsi. Invece la politica con la P maiuscola è la cosa più nobile che ci possa stare, e che è stata macchiata ed è ancora tuttora macchiata. Cerchiamo di stimolare le persone a impegnarsi, a quel punto non ci sarà più nemmeno bisogno di intervenire ogni volta con un comma o con un articolo, sì. Quindi questo è il tema principale. Guardi, le faccio un esempio e porto la mia esperienza di ex magistrato in tema di corruzione. Molte volte, quante più regole ci sono, più si annida il malaffare, l'imbroglio e il piacere che ti deve fare qualcuno. Ci vogliono poche regole ma chiare, e chi sbaglia deve pagare. Senta, ma la risposta la deve dare la magistratura o la politica? Il grande tema, cioè se la politica deve selezionare le persone oppure se bisogna colpire con le inchieste? La politica. Io spero che finalmente arrivi una stagione che il paese lo cambi la politica con la P maiuscola, quindi significa i cittadini. L'azione giudiziaria interviene quando già siamo in patologia, siamo in una malattia cronica, si interviene per punire, ovviamente chi sbaglia, come ho detto prima, deve pagare, ma pensare che il paese si possa cambiare per via giudiziaria è qualcosa che democraticamente ovviamente mi atterrisce. Teniamo anche presente, purtroppo, l'inquinamento in termini di corruzione e di mafie non colpisce solo la politica, ma sta incominciando a colpire pezzi importanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della stessa magistratura. Quindi il tema oggi è che il popolo, i cittadini, le persone si riappropriano del senso della vita comune, della vita civile e dei beni comuni. Però le chiedo questo, sindaco, perché il Consiglio Comunale giovedì c'era una proposta, mi risulta, di abolire e vendere le auto blu in dotazione all'assessore e sostituirle con dei buoni taxi, una proposta dell'opposizione, che la maggioranza, il Consiglio Comunale, ha, quindi la sua maggioranza, ha bocciato. Perché? Non poteva essere un bel segnale di... No, la ringrazio di questa domanda, perché questa è una rappresentazione falsa di quello che è accaduto. Io, come sono diventato sindaco, noi abbiamo abolito le auto blu, cioè nel senso che non c'è nessun assessore che ha auto blu, quindi nessuno. Ci sono delle macchine di servizio a noleggio, tra l'altro a leasing, che servono per i servizi, come dire, comunali. Quindi non si poteva approvare quella delibera per due motivi: primo, perché non ci sono le auto blu degli assessori, e secondo, perché non possiamo vendere macchine di cui non ne abbiamo la proprietà. Quindi era proprio una delibera, come dire, improponibile. Ma non si poteva, non si potevano farle uscire dalla dotazione, diciamo, e utilizzare. Ma no, quelli servono, per esempio, per portare, non so, certificati elettorali, insomma, sono macchine che servono ai servizi comunali, non servono agli assessori. Vede, questo è il classico esempio di come bisogna essere sempre attenti quando si affrontano i temi, perché una cosa è la macchina all'assessore, noi l'abbiamo abolito, tanto gli assessori vengono al Comune di Napoli o a piedi o in bicicletta o in tanti modi. Una cosa sono le macchine che servono per portare i servizi, e quelle qualcuno non la possiamo eliminare, stanno in tutti i comuni del mondo. A livello nazionale, che ne pensa del Monti bis? Sembra che il partito Monti bis si stia allargando sempre di più. Lei lo vede bene? Innanzitutto, Monti bis inteso per come è nato il Monti primo, sono contrario. Se poi Monti decide di candidarsi, per carità, è legittimo, è una persona autorevole, è una persona che ci ha dato credibilità internazionale. Ha già detto di no, però. Ha detto di no, però. Ma insomma, se per Monti bis si intende invece un'operazione tipo questa di oggi, cioè un'operazione che non ha legittimazione democratica, una maggioranza di questo tipo, io sono assolutamente contrario. Sono invece favorevole a che si costruisca nel paese un'alternativa non solo politica, ma un'alternativa soprattutto sui temi economici, culturali e sociali del nostro paese. Secondo me ci vuole molta più giustizia sociale, che Monti per la verità non sta affatto favorendo. Però l'idea è, se c'è un pareggio, esce un sostanziale pareggio e quindi ingovernabilità alle prossime elezioni, ecco che Monti dice: se serve io ci sarò. Cioè questo potrebbe essere il senso di un Monti bis. Ma allora incominciamo a fare, chiediamo al Parlamento, che anche qui c'è una maggioranza bulgara, di fare una legge chiara, elettorale, non una legge truffa, esatto, cioè di fare una legge in cui i cittadini, quando mettono la scheda nell'urna, sanno che vanno a votare non solo un'alleanza elettorale, ma un'alleanza di governo. Io invece temo che si stiano preparando le condizioni anche normative di legge per un Monti bis, diciamo così, che poi può essere Monti o anche un altro, cioè una legge non chiara, non esce una maggioranza dalle elezioni, poi si va in Parlamento, i segretari di partito si chiudono in una stanza insieme ai poteri forti e decidono che bisogna andare avanti come sempre, cioè che alla fine non cambia mai nulla. Ecco perché io credo non c'è bisogno di allargare la foto di Vasto con una foto più grande rispetto a quella più piccola. c'è bisogno di mettere in moto nel paese un entusiasmo civile, coinvolgere tutte le persone che hanno voglia di fare politica, di mettersi in frase, cioè c'è bisogno in Italia di qualcosa di fortemente innovativo. Ecco, però a questo proposito, lei aveva detto di recente che entro settembre, adesso siamo a ottobre, ci sarebbe stato questo movimento con i sindaci anche protagonisti, con il nome, con un manifesto. Che succederà? Cioè, esiste questo progetto? Esiste ed è pronto praticamente. Ci dica qualcosa, cioè il nome. Sì, no, esattamente nei termini, in estrema sintesi, che abbiamo pochi secondi, è quello che ho detto poco fa, cioè il tentativo di coinvolgere nell'attività politica e nella ricostruzione del paese tutte quelle persone che sono stufe di riconoscersi in schemi precostituiti dei partiti. Un movimento che non deve fare la guerra ai partiti, ma deve cercare soprattutto di costruire e costruire anche modelli nuovi che non siano solo politici. Ma un movimento di sindaci? Sindaci. I sindaci, molti saranno impegnati in questa campagna elettorale, diversi sono interessati al movimento Francione, ma pensare che il paese lo cambino solo i sindaci diventa un altro errore. I sindaci in questo momento rappresentano una risorsa e noi la vogliamo mettere, alcuni di noi, soprattutto a servizio del paese, ma l'idea principale è che nel movimento ci siano i protagonisti degli ultimi mesi della politica in Italia, penso agli impiegati, gli operai, le donne, i giovani, gli studenti, tutti quelli ai quali finora Monti, nonostante diciamo i grandi propositi roboanti, non ha dato nessuna risposta, anzi ha compresso ulteriormente diritti e aspettative. Però i nomi poi per prendere i voti contro, cioè non mi dice neanche un nome, non so, Pisapia, Derito, Zedda, Cagliari, Appennino. No. I magistri sono sindaci e vogliono continuare a fare i sindaci in miglior modo possibile in un momento drammatico. E quello dice lei è vero, dovremmo prima o poi arrivare a un momento in cui i nomi contino non più di tanto. Oggi c'è bisogno di mettere dei nomi e questo è il tema, se fare o meno anche oltre al movimento una lista civica. Se ci saranno dei nomi che vogliono candidare nell'interesse del paese, nomi che hanno una forte credibilità nazionale, allora io credo è il momento anche di fare una bella lista civica dei cittadini, e io vedo dei segnali da questo punto di vista incoraggianti, sto dando persone che hanno compreso che il momento è delicato e hanno voglia di cioè, come diceva Don Milani, tenere le mani pulite ma mantenerle in tasca poi alla fine non ha senso. Una lista civica, come si chiamerà? Lista Arancione, Movimento Arancione? Sì, questa è la base principale, sì. Arancione. Poi stiamo lavorando sul SIBO. Sì. Arancione. Vabbè, e entro quando si può sapere? Adesso ci siamo, dobbiamo dobbiamo vedere con le agende di tutto. Insomma, è questione di giorni proprio. Dieci giorni. Ma spero anche prima. Anche prima. Ci siamo. Senta, la preoccupa la ripresa della faida di Camorra a Napoli? Ovviamente non si è mai sopita, ma di recente purtroppo ci sono stati, soprattutto a Scampia, diversi omicidi. E certo che ci preoccupa anche un aumento complessivo in tutta Italia, devo dire la verità, non solo a Napoli, di una criminalità di bisogno. Cioè stanno ritornando reati che erano un po' stati ormai soppressi, dal contrabbando di sigarette a diversi furti che aumentano. La faida ci preoccupa, devo dare atto al Ministro dell'Interno che ha fatto una prima risposta buona e attenta, il 3 verrà a Napoli per un comitato, insomma noi stiamo anche costruendo soprattutto delle alternative sociali e culturali in quella zona, che ovviamente è l'impegno che il comune può fare. Non l'esercito serve per altre cose, ma non per questo tema, perché bisogna di un coordinamento efficace tra le forze dell'ordine, tra forze dell'ordine e magistratura, e il comune che è presente con le sue attività. A Napoli questo è un aspetto positivo, c'è un ottimo rapporto tra le istituzioni che collaborano in un momento così difficile. Altre ultime due cose a proposito di Camorra: perché non sradicare i parcheggiatori abusivi a Napoli? Che può fare il sindaco? Può promettere che questa cosa, questa piaga verrà sradicata, e come? Allora, qua abbiamo fatto qualcosa di nuovo rispetto al passato. Innanzitutto un censimento, sono circa 500-600, e poi siccome la denuncia, come lei può intuire, non serve a niente, perché come viene denunciato il parcheggiatore, il giorno dopo sta un'altra volta là. Insieme alla questura abbiamo messo in campo un'azione che punta a colpire i parcheggiatori abusivi con le cosiddette misure di prevenzione, cioè prima l'avviso orale, se il parcheggiatore abusivo non rispetta l'avviso orale scattano sanzioni pesantissime, tra cui per esempio il divieto di dimora nella città di Napoli. Un'azione di contrasto dura, perché in questo momento insomma c'è bisogno che nella città, in tutti i suoi presidi, si affermano i temi della legalità. Ma ci sarà un risultato su questo? Perché ci sarà, è chiaro. Ovviamente tenga presente che le forze in campo sono ridotte, perché tra le forze dell'ordine che non hanno più la benzina, certe volte le macchine, Polizia Municipale, noi con la spending review non possiamo assumere una persona. Poi vorrei chiedere a Monti, approfitto della sua trasmissione, magari vendesse qualche cacciabombardiere in meno e desse un po' più di benzina alle forze dell'ordine, forse potremmo dare anche meglio risposta a questi temi. L'ultima battuta è se so che siete molto superstiziosi a Napoli, dico 5 se il Napoli vince lo scudetto, che fa il sindaco di Napoli Luigi De Magistris? Non lo spogliarello come la Ferilli, questo è chiaro. Però... Ma noi siamo, quello sicuramente, perché non... Allora, noi siamo molto scaramantici a Napoli. Io posso dire che Napoli si sta anche molto rilanciando con lo sport. Abbiamo fatto Coppa Davis, America's Cup, il Giro d'Italia partirà da Napoli, il Calcio Napoli. Io sono convinto che farebbe molto bene alla città, perché Napoli è una città, per chi la conosce, vive molto di entusiasmi. No, ma ho capito, ma se dovesse succedere... No, non lo so, ma quelle sono cose che si improvvisano, guardi, come improvvisai vinte le elezioni... una certa scena sul palco, quelle sono cose che si improvvisano. Si improvvisano, si fino all'ultima giornata, l'ultima ma poi è lungo, lei già parla di scudetto, qua siamo è lontano. Io sono milanista, almeno parlo degli scudetti degli altri, mi sa, per un po' d'anni. Vabbè, la invito a Napoli. Benissimo, la ringrazio, buona giornata, per essere stato con noi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Poi parliamo di questo evento, questa notizia di cronaca che proviene dal mondo della scuola, che secondo me è stata molto sottovalutata. Una ragazza è stata beccata a copiare durante l'esame di maturità, per questo è stata nel recente esame di maturità, nell'ultimo è stata esclusa, ha fatto ricorso e il Consiglio di Stato le ha dato ragione, perché la ragazza era in uno stato d'ansia, perché aveva un brillante curriculum scolastico, era stressata nel momento dell'esame, quindi è vero, ha copiato da un cellulare palmare, ma bisogna tener conto che era stressata. Cos'è la scuola del buonismo? È quello che vogliamo? O la scuola del merito? Oppure è giusto, non bisogna esagerare nei confronti di una ragazza studentessa modello fino a quel momento? La vicenda è questa. Una ragazza fa la maturità, è il 20 giugno, scorso, dunque la maturità in un liceo scientifico in Campania. Questa ragazza si chiama Mariangela. A un certo punto, durante la prima prova di italiano alle 14:30, tira fuori un palmare, un telefonino. Ovviamente ciò è vietato, viene per questo beccata dai professori, dalla commissione, viene esclusa dalla maturità. Ma lei e i suoi genitori fanno ricorso, arrivano fino al Consiglio di Stato. Allora, in primo grado perdono per l'esclusione, ma il Consiglio di Stato dà ragione alla ragazza, perché, leggo dalla sentenza del Consiglio di Stato, non si poteva ignorare il brillante curriculum scolastico della candidata, né le peculiari circostanze che caratterizzavano il fatto contestato. L'ausilio di un palmare per uno stato d'ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute. Insomma, come ha scritto per esempio sul Corriere della Sera il professor Giovanni Belardelli, che è nostro ospite, che saluto, professore, buongiorno. Buongiorno. Insegna all'Università di Perugia. Copiare si può. Copiare, questo almeno è il messaggio che proviene dalla scuola. Io voglio salutare anche l'avvocato Eliseo Laurenze, l'avvocato che ha seguito il caso, ha difeso questa ragazza. Avvocato, buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Senta, detto che il processo non lo dobbiamo fare qui in radio, tanto avete vinto, la causa è chiusa. La ragazza che aveva tra l'altro sostenuto l'esame di maturità, perché in una fase di sospensiva ha tenuto l'esame di maturità, è stata, con questo pronunciamento del Consiglio di Stato, di fatto dichiarata matura e dunque ha passato la maturità. Senta, che ne pensa, avvocato? Lei ovviamente ha vinto la causa, sarà contento, ma che messaggio si può dare? Che copiare si può a scuola? No, non è questo, diciamo, il significato della sentenza, del giudizio conclusosi appunto con la sentenza del Consiglio di Stato. L'oggetto del giudizio è stata la legittimità della sanzione irrogata alla ragazza, perché nel sistema normativo che disciplina appunto la scuola di secondo grado e le sanzioni disciplinari irrogabili agli studenti, non è prevista l'esclusione dagli esami di Stato. Beh, ma in che senso? Le spiego, il corpo normativo disciplinante le istruzioni scolastiche, il 425 del 97, che come detto nel ricorso e come riconosciuto sia dal TAR che dal Consiglio di Stato, non reca questa sanzione. Cioè non è prevista la sanzione, no, dell'esclusione per chi copia con uno strumento tecnologico, no, in precedenti giurisprudenziali. Quindi non in precedenti giurisprudenziali, ma proprio nel corpus normativo che disciplina l'istruzione gruppo. Ho capito, ma avvocato, verrebbe da dire, allora cari studenti, alla prossima maturità portate pure tutti i cellulari che volete. C'è un vuoto normativo che in effetti è stato colmato con l'ordinanza di indizione degli esami di maturità che ha previsto l'esclusione per chi copia mutuandola, riprendendola dal corpo normativo che disciplina i concorsi pubblici. Ah, ecco, cioè si assimila. Cioè, nell'ordinamento c'è l'esclusione per chi copia. Ok, si assimilano come se fosse un concorso pubblico e quindi in concorso pubblico si viene esclusi e dunque anche la maturità. Questo però dal punto di vista delle tecnicalità che poi hanno portato alla sentenza. Ma dal punto di vista suo, personale, lei che pensa, che è giusto dare questo tipo di messaggio? Si può copiare tanto si viene promossi? Ma non è questo, purtroppo è il messaggio che viene stato detto in questi articoli, che evidentemente chi l'ha scritto non ha approfondito la questione dal punto di vista normativo. Il giudizio che è stato proposto è relativo alla legittimità, se è conforme alla normativa. Ovviamente la pena non può essere applicata se l'istituto normativo, la norma non prevede quella fattispecie. Non è conforme alla normativa. Si fermi un attimo, allora, professor. Altrimenti non ci comprendiamo. Le sanzioni disciplinari sono recate da un decreto del Presidente della Repubblica, del 1998. Ora, per le sanzioni disciplinari per i comportamenti disciplinarmente rilevanti, dice la legge, dice il decreto 249 del 98, debbono essere sanzioni sempre temporanee, proporzionate all'infrazione, disciplinare e ispirate al principio di gradualità, perché la finalità della scuola è fare in modo che gli studenti apprendano preparazione degli studenti. Questo è chiaro dal punto di vista della legge, ma io l'ho premesso, avvocato, voglio dire, il Consiglio di Stato vi ha dato ragione, quindi non è che dobbiamo mettere in dubbio questa sentenza. Però professor Belardelli, a lei convince l'idea di dire dal punto di vista della normativa non è prevista l'esclusione, quindi il Consiglio di Stato ha preso atto, anche se il TAR per la verità aveva bocciato e aveva respinto il primo ricorso, però il Consiglio di Stato ha preso atto che non esiste normativa e dunque non è congruo a questo tipo di esclusione. A lei, professore, che considerazioni fa dare questa vicenda? Sì, io faccio questa considerazione al di là della questione che mi pare di aver capito, no? Che c'è un vuoto normativo o non un vuoto normativo, va bene. Dopodiché, se qui non si provvede, la realtà è quella che abbiamo sotto gli occhi, che è la realtà per la quale l'anno passato, 2011, un gruppo di insegnanti fece un appello pubblico invitando a non copiare, invitando i loro colleghi a non far copiare e anzi a non essere attivamente, diciamo, di aiuto e di supporto nel copiare, perché questa è la realtà della scuola italiana. Allora, noi possiamo discutere all'infinito del vuoto normativo oppure possiamo prendere atto di che cos'è diventata una scuola in cui non è che si può copiare, si copia. Io nell'articolo che lei ha citato citavo un'indagine dell'SVG, fra l'altro, quindi un istituto di ricerca serio, da cui risulta che praticamente alla maturità quasi tutti copiano, fra quelli che dichiarano di copiare molto, un 37% ha detto di aver copiato tutto. Sì, io quasi non ho citato, per non farla troppo lunga, la percentuale di quelli che hanno detto no, non abbiamo copiato perché non ci siamo riusciti, perché c'era anche quel dato, ma insomma erano troppi numeri. Questa è la realtà della scuola italiana, ma questa è anche la realtà, direi, di un paese in cui sostanzialmente copiare è una cosa che si vabbè, che sarà mai. Un telegiornale, un TG1 alle 20 di sera, quindi un'ora di massimo ascolto, fece un servizio su tutti i modi per copiare il giorno prima della maturità, una cosa semiseria, allora con tutti gli aggeggini tecnologici, eccetera, senza che nessuno si scandalizzasse. Cioè, ci sembra normale copiare. Qui c'è un dato di fondo che va ben oltre, diciamo, la questione di questo di questa sentenza, o in generale direi anche della scuola, che in questo riflette un dato della società. Ma su questo non c'è dubbio. C'è da dire, io do le informazioni sul traffico, ma il punto da cui vorrei ripartire anche con l'avvocato Laurenza, che appunto ha difeso la famiglia, la studentessa Maria Angela, la sua famiglia, tra l'altro i cui genitori, ce lo può confermare avvocato, sono professori? Cioè i genitori di questa ragazza sono professori, insegnano a scuola? Ecco, insegnano a scuola. Allora io vorrei ripartire da questo punto, al di là del vuoto normativo, no, questa ragazza ha fatto un qualcosa alla maturità che non si può fare, cioè ha utilizzato un cellulare. Questa cosa va bene? Va male? Avvocato Laurenza, le chiedo questo, usciamo per un attimo dalla questione vuoto normativo. Questa ragazza ha fatto qualcosa, su questo siamo d'accordo, che non si può fare secondo le regole. Però va tutto bene così, secondo lei? No, però voglio fare una parentesi. La scuola deve insegnare, deve dare l'esempio, appunto deve far apprendere i ragazzi. Nello studio della causa, nella preparazione del ricorso, ho fatto delle domande ai genitori, mi sono informato. Mi risulta che non è nessun regolamento perlomeno nell'istituto scolastico in oggetto, il regolamento Shugan non prevedeva alcuna sanzione per la copiatura. Mi scusi. Anche nelle percentuali dette dal professor Dell'Ardelli, a me sorprende che praticamente il 50% abbia copiato in parte o totalmente, sì. E nessun professore ha detto al controllo se ne sia accorto. Sembra quasi che lei stia dicendo perché questa ragazza deve pagare per tutti, perché hanno preso lei. Il discorso, allora, dal punto di vista morale, io non sono d'accordo, sono d'accordo con il professor Dell'Ardelli e con chiunque altro, non è un comportamento da utilizzare. Dall'altro lato, forse più da avvocato, dico, io mi rendo conto che si deve applicare la sanzione giudiziaria, devo avere un comportamento conforme a quello che per 5 anni mi ha insegnato la scuola, se per 5 anni... Nessuno mi ha detto che non si deve copiare. E anche alla cronaca dei giornali si sono visti fatti in cui si usava il cellulare in classe. L'istituto cosa hanno fatto? I professori che adesso sono insorti perché in sede di esame di maturità non si deve copiare. Che hanno fatto per anni il professor Bellardelli? Qui l'avvocato dice, insomma, anche questa ragazza non è stata seguita evidentemente nell'educazione scolastica a capire che non si deve copiare. Non c'era il regolamento che puniva la copiatura e dunque adesso perché ve la dovete prendere per questo? Ma io credo sì, ci sia un fondamento di vero in questo. C'è un'indagine di un sociologo recente, che si chiama Ragazzi si copia, questo libro. Il sociologo si chiama Marcello Dei, l'ha pubblicato in Mulino. È una testimonianza agghiacciante perché si intervistano molti insegnanti e, per carità, non tutti, io mi auguro neanche la maggioranza, ma ci sono atteggiamenti di questo tipo. Un insegnante risponde, sono 2 righe che dicono tutto. Il mio atteggiamento è di confronto, voglio capire perché lo sta facendo, sta copiando il ragazzo, voglio discutere con lui, capire le ragioni e poi prendere delle decisioni. E alla domanda dice, vabbè, ma lei cosa fa? Copiava il compito? Beh, lo decidiamo insieme, lascio decidere a lui. Allora, sarà un caso limite e lo speriamo tutti naturalmente, però se nella scuola italiana ci possono essere insegnanti che pensano questo... C'è anche qualcuno che ha dichiarato al sociologo Dei, ma in fondo un ragazzo che copia cosa fa? Non avendo studiato prima, per copiare una frase bisogna leggerla, quindi copiare è una forma estrema di studio. È una forma improvvisata, è come il teatro di improvvisazione, no? Allora capisci, io penso, adesso non so nulla del caso specifico, ho solo letto la sentenza, ma insomma del Consiglio di Stato della ragazza, sì. Però penso che... Suppongo che dietro ci sia certamente un messaggio carente da parte della scuola e degli insegnanti. Ai genitori della ragazza sono insegnanti, ma per carità non è che li voglio giudicare, però ci ha confermato l'avvocato, sono professori anche. D'altra parte io mi immagino un insegnante che si impunta in consiglio di classe per dire questa ragazza o questo ragazzo copiava eccetera, si trova di fronte dei colleghi come quello che pensa le cose che ho appena letto eccetera, alla fine dice, per di più adesso però scusate, si trova anche la sentenza del Consiglio di Stato, dice ma a me scusate chi me lo fa fare? Si girerà dall'altra parte, Questo è il problema. Poi non ci sarà da fare statistiche l'anno prossimo. Sarà giusto che tutti copino. C'è la giurisprudenza che ce lo consente. Sentiamo Lucio da Roma, ci ha chiamato all'800240024. Lucio, buongiorno. Buongiorno. Che ci vuole dire? Grazie di avermi fatto intervenire. Allora, io volevo principalmente dire che sono notizie come queste che mi rendono sempre più perplesso di abitare una sorta di Repubblica delle Banane. Ossia, pronto? Sì, sì, la sentiamo benissimo. Ah, sì, no, scusate. Ossia, mi sembra che qualunque cosa punti verso un individualismo sempre più sfrenato, una deresponsabilizzazione altrettanto sfrenata. Io ad esempio ho amici professori che non bocciano ormai più perché dice tanto c'è il ricorso al TAR. Sì. Sarebbero rotture di scatole e basta. Ma TAR che in questo perché... caso aveva bocciato il ricorso, ma poi c'è il Consiglio di Stato, c'è l'appello. Sì, sempre. Sì, vabbè, poi ci sono tutti i gradi di giudizio, però il problema è che è una procedura che andrebbe inibita perché deresponsabilizza i genitori. Perché mio figlio è bravo, mio figlio è buono, mio figlio è bello, non fa tutte quelle cose, è il sistema che sbaglia. È il buonismo, dice, c'è troppo buonismo anche nella scuola. Lucio, la ringrazio, vorrei andare in provincia di Pistoia da Pino. Buongiorno Pino. Il quadro è allarmante ormai da diverso tempo, non ci si può stupire di queste cose quando poi questa ragazza va all'università e poi la vediamo nei quiz televisivi e non ci sa dire, abbiamo sentito, non ci sa dire le tremiti che stanno in Sicilia, sì. Che Roma non sa la regione dove sta Roma. Sì. Magari in realtà non la conosciamo, magari è una ragazza che ha studiato tantissimo e che ha copiato come le statistiche dicono, come tanti altri all'esame di maturità, solo che lei è stata presa, caro Pino. Settimana scorsa la campionessa dell'eredità, per esempio, sì. Ha detto che la dose di Coltelli di Hitler è avvenuta nel 68. Allora, in queste ma lei, la campionessa dell'eredità, cos'è che ha detto di Hitler che è morto nel 68? La notte dei lunghi coltelli. Ah, la notte dei lunghi coltelli. Da Hitler, sì. È avvenuta nel 68. Allora, nessuno si preoccupa di questo. Perché? Vabbè, ma la cultura italiana, vabbè, la campionessa dell'eredità, cos'è quella trasmissione su Rai 1? Grazie Pino, no, perché sono quasi in chiusura. Avvocato Laurenza, la ragazza in questione ha passato la maturità perché gliel'hanno fatta fare in attesa dei gradi di giudizio, la spiego così rapidamente. Quindi adesso è matura, visto che il Consiglio di Stato ha detto. Che farà questa ragazza come curriculum scolastico, Prosegue gli studi universitari. Prosegue gli studi universitari. Cioè, secondo lei, che cos'è questa? Una macchia che le rimarrà? Un qualcosa che almeno le ha fatto capire che non si scherza con queste cose, che non si deve copiare? Oppure... La ragazza e i genitori che quando sono venuti insieme alla figlia erano consapevoli dell'errore che aveva fatto la ragazza, così come la stessa ragazza. E non è meglio, visto che c'è questo errore, educarla con una sana bocciatura, o era troppo? Lei dice, c'era il vuoto normativo. No, la bocciatura risponde a un giudizio che deve dare al termine del corso. Non la bocciatura, cioè il fatto che era stata esclusa dalla maturità. Cioè, come dire, i genitori, lei non avrebbe visto bene i genitori che dicono: senti, hai sbagliato, cara figlia, ben ti sta, così l'anno prossimo forse impari a non copiare. Questo, questo è un giudizio che devono formare i genitori, che erano anche propensi, non hanno consapevoli dell'errore fatto, hanno propensi anche a fargli ripetere l'anno. Però se la scuola, alla fine, il giudizio di maturità serve altro che ad accertare la preparazione della ragazza. Sì. E la ragazza, grazie al provvedimento cautelare del TAR Campania dato immediatamente, comunque sta sottoposta, ha ripetuto la prova durante la quale era stata esclusa, le successive prove scritte, e alla fine la stessa commissione che aveva adottato quel provvedimento ha riconosciuto che la ragazza era preparata. Sì, lei dice, a questo punto è tutto valido. Io però mi devo fermare, la ringrazio avvocato, così come ringrazio il professor Giovanni Belardelli, con noi Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a domani alle 6:30.